Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Sappiamo tutti che per un atleta il massimo riconoscimento possibile è l'oro olimpico, poi c'è l'argento, poi c'è il bronzo. Bene, oggi noi vi raccontiamo una bellissima e anche tragica storia di un grandissimo atleta, un uomo straordinario, lo sportivo per eccellenza, uno che ha vinto ori, argenti, bronzi, ma che ha ottenuto la gloria grazie a un altro metallo, un pezzo di ferro arrugginito. E noi entriamo nella leggenda, vi raccontiamo una storia che è tutta una serie di colpi d'ala, rilanci verso l'alto. È un uomo unico, il primo atleta ad aver ricevuto un riconoscimento del tutto speciale che lo ha traghettato nell'Olimpo dei campioni con la C maiuscola, non solo per le sue imprese sportive ma soprattutto per quelle umane, per la capacità di passare sopra a quello che è il motore di ogni impresa sportiva, cioè la vittoria, per dare spazio alla classe, alla sportività, al fair play. Oggi sentirete l'incredibile e bellissima storia di Eugenio Monti, il grandissimo bobbista trentino, pluricampione del mondo, premiato con medaglie olimpiche e ori mondiali, ma anche autore di uno dei gesti più belli che si possano ricordare nella storia dello sport. E a proposito del suo sport, il bob, ascoltate cosa aveva dichiarato lui. Il bob, già al primo incontro mi aveva affascinato. Quasi come quando ti capita di ballare con una bella donna che ti viene presentata improvvisamente e tu balli e non sai cosa dirle. E poi la inviti a ballare una seconda volta e lei accetta e tu continui a star zitto perché è piacevole l'incontro e ti sembra che questo basti. Il bob è diventato così la mia seconda passione. Eh sì, la seconda passione, perché lo sport di partenza, quello nel quale lui avrebbe voluto eccellere fino alle vette più alte, era un altro, era lo sci. Ma la vita gli fa cambiare rotta. Questo è il primo grandioso colpo d'ala nella vicenda di Eugenio Monti. Nasce il 23 gennaio 1928 a Dobbiaco, in Valpusteria, e uno dei posti più belli del mondo, le Dolomiti. Lui è piccolo quando la famiglia si trasferisce a Cortina d'Ampezzo e lì, come tutti quelli che abitano in quelle zone, lui impara a sciare. Un po' di più che imparare, diventa subito un piccolo campione, giochi studenteschi, primi successi sportivi, risultati straordinari, tanto che viene notato perfino dal grande Gianni Brera, grande giornalista sportivo e onomaturgo, vi piace la parola onomaturgo, cioè creatore di parole nuove. Contropiede, goleador, libero, catenaccio, abatino, tutte parole inventate da Gianni Brera, che dà anche grandi soprannomi: rombo di tuono, bonimba, appunto abatino per Rivera. Bene, il giornalista rimane molto colpito dalla figura agile e scattante di Eugenio Monti e lo chiama, lo ribattezza il Rosso Volante, un soprannome che a Monti piace molto, che si porterà dietro per tutta la sua vita. E così lui arriva alle gare nazionali nel 49, a 21 anni è campione italiano di slalom gigante e poi conquista il titolo di slalom speciale, poi si distingue nella discesa libera, viene definito l'erede di quello che è considerato il più grande campione di sci italiano di tutti i tempi, cioè Zeno Colò. Lui ha una, Monti ha un'ammirazione sconfinata per lui, arrivano a confrontarsi. Da un lato c'è Zeno Colò, campione, mostro sacro dello sci, e dall'altro c'è lui che sta già emergendo. Siamo a Chamonix in Francia e Eugenio Monti riesce a mettere le proprie punte, diciamo, davanti a quelle del suo mito di Zeno Colò, e qualche anno dopo gli scriverà una lettera commossa e spiritosa. Quello è stato il giorno più bello della mia vita. Ritengo tu possa considerarti soddisfatto di essere la ragione prima della mia gioia. Firmato Eugenio. E così Eugenio Monti diventa una certezza dello sci italiano, ma non sarà così, perché la vita ha in serbo per lui altre cose. Il falco e il gabbiano. Tra 13 dicembre 1951, siamo in Piemonte al Sestriere, una delle stazioni sciistiche più rinomate d'Italia, 400 km di piste. Bene, su una di queste, la famosissima Banchetta, si sta allenando un giovane dai capelli rossi, Eugenio Monti. L'allenamento è duro, è severo, è rigoroso, però a un tratto qualcosa va storto, lui non se lo saprà mai spiegare, ripercorrerà col pensiero quegli istanti migliaia di volte. È una caduta che gli procura un danno irreversibile, rottura dei legamenti di entrambe le ginocchia, per lui è la fine. Responso dei medici categorico, chirurgia sportiva che all'epoca non può fare quello che potrebbe fare oggi. Insomma, per il rosso volante la carriera si conclude quel giorno e lui apprende la notizia dal letto dell'ospedale. È un colpo tremendo, possiamo solo immaginare quello che deve aver provato, ma lui non è uno che si abbatte. Qui arriva veramente il colpo d'ala, quello da applausone, perché quando uno ha la velocità nel suo DNA non ci sono legamenti che tengano, e quindi dopo un periodo di convalescenza lui pensa: se non potrò volare sugli sci, volerò con un altro sport. È uno sport puro, fatto di sacrificio, di velocità, diciamo, ecologica, perché non ci sono motori, brividi, atletici, c'è solo la forza di gravità messa al servizio dei muscoli, dell'equilibrio e del sangue freddo. Questo sport è il bob. Nous sommes en 1924 à Chamonix. Cette course de bobsleigh est l'une des 7 épreuves des premiers Jeux Olympiques d'hiver. 16 nations, un peu moins de 300 participants, se retrouveront ici, au pied du Mont Blanc, pour cette première Olympiade dédiée au sport d'hiver. Il bob è una delle discipline sportive invernali per eccellenza. Entra a far parte del programma dei Giochi Olimpici da subito, dalla prima edizione 24, Chamonix. E c'è un motivo preciso per il quale Eugenio Monti si avvicina a questo sport, perché il primo bob club d'Italia nasce a Cortina d'Ampezzo e grazie a questo sport che è diretto, veloce, Eugenio Monti si rende conto che anche se non potrà più sciare può provare ancora le stesse emozioni e la stessa adrenalina. E i primi successi non tardano ad arrivare. Siamo nel 54, campionati italiani di bob con Alverà, D'Andrea e Girardi. Lui conquisterà la medaglia d'oro nella specialità del bob a 4, un successo insperato per uno che ha approdato al bob da pochissimo tempo. E poi gli anni che seguono vedono il medagliere di Monti che si affolla sempre più. È campione italiano, campione del mondo diverse volte, vince le Olimpiadi invernali nel 56, due argenti nel bob a 2 con Alverà e nel bob a 4 con Alverà, Girardi e Mocellini, prime medaglie che l'Italia abbia mai conquistato in questa specialità. Nel 1960, sempre nella sua Cortina, Eugenio Monti vincerà il suo quarto mondiale e nella sua carriera arriverà a vincerne 9. Questa volta in primo piano Eugenio Monti e Bruno Alverà hanno conquistato per la quarta volta il titolo mondiale di bob a 2. La prima maglia iridata di questo 1960 dedicato allo sport è toccata all'Italia. Dopo i successi conseguiti nel 57 a St. Moritz, nel 58 a Garmisch e nel 59 ancora a St. Moritz, ecco Monti e Alverà conquistare il quarto alloro mondiale proprio sulla loro pista, quella di Cortina. Hanno dominato il campo pur avendo avversari agguerriti. In tutte le discese non hanno praticamente avuto rivali. Hanno detto agli amici di voler chiudere trionfalmente battendo il record della pista, anche se il ghiaccio si era un po' allentato per l'aumentata temperatura. I due cortinesi sono venuti giù come una setta, da pazzi, dicevano i tecnici. Al termine della prova decisiva, sui loro volti il segno dell'emozione, per il pericolo corso e per la vittoria conquistata col coraggio spavaldo dei forti. Coraggio spavaldo dei forti, una bella chiusura. E Eugenio Monti quel coraggio ce l'ha, è il migliore, lo sanno tutti. Lui studia le piste, le sale, le scende, centimetro per centimetro, col termometro in mano per immaginare e valutare tutte le variabili della discesa. E lui ha sotto al corpo il bob più veloce del mondo. Viene ribattezzato la Ferrari del ghiaccio. È un bob, si chiama Podar, dal soprannome di Evaldo D'Andrea, che è un artigiano cortinese che costruisce manualmente questo super bob, capace di sconfiggere la concorrenza dei costruttori istruttori svizzeri, cioè i più affermati del mondo. Lui questo Bob Eugenio se lo coccola, lo accudisce, si dice che strofini i pattini con del pelo di gatto, perché ha scoperto che in questo modo riesce a strappare al ghiaccio un po' di velocità in più. Insomma, lui è una leggenda vivente, i suoi segreti di campione sono un mistero di cui si parla sottovoce nel giro dei bobisti. E arriviamo al 1964, l'anno delle Olimpiadi di Innsbruck. L'inaugurazione avviene in un clima festoso, particolarmente per il Bob, che ritorna dopo aver subito una battuta d'arresto nell'edizione precedente a Squaw Valley in California. E quindi tutti aspettano questo momento. In più siamo nel 64 e Eugenio Monti ha 36 anni, probabilmente la sua ultima occasione per vincere l'unica medaglia che gli manca, l'oro olimpico, il titolo più prestigioso. Gareggia nel Bob a 2 con il suo frenatore Sergio Siorpaes, quello che si sente sempre dire la stessa frase: se freni te copo, se freni ti ammazzo, perché in realtà il frenatore nel Bob deve fare tutto tranne che frenare, deve spingere il Bob quando salgono in corsa, no? Per avere la maggior velocità possibile, e poi deve aiutare le traiettorie, ma non frenare mai. E le cose non andranno esattamente come era stato pianificato, perché sulla strada di Eugenio Monti arriverà un bullone di ferro arrugginito, un intoppo che gli varrà però qualcosa di molto più prezioso di qualsiasi medaglia d'oro. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando l'epopea di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, uno dei più grandi campioni di bob mai esistiti, ma non solo, il primo sportivo al mondo a essere insignito di un riconoscimento speciale creato appositamente per premiare il fair play e il senso sportivo. Ma andiamo con ordine, stiamo parlando del grande campione Eugenio Monti, soprannominato da Gianni Brera il Rosso Volante. Una carriera promettente nello sci che viene stroncata da un brutto incidente che compromette i legamenti di entrambe le ginocchia. E qui c'è il colpo d'ala che fa sì che il nostro protagonista cambi sport, si passa al bob e Eugenio Monti diventa campione indiscusso, riconoscimenti incredibili in pochissimo tempo, campione italiano, campione del mondo, due argenti alle Olimpiadi disputate a Cortina d'Ampezzo nel 1956, poi si arriva alle Olimpiadi del 1964, Innsbruck. Eugenio Monti deve, vuole conquistare l'unica medaglia che gli manca, l'oro olimpico. Probabilmente è la sua ultima occasione, perché ha già 36 anni e alla cerimonia di apertura viene scelto come portabandiera e gli italiani sono pronti a questa gara, incrociano gli sguardi con un team molto forte, sono gli inglesi Tony Nash e Robin Dixon. Li hanno battuti al campionato del mondo tenutosi in Austria l'anno prima, però è un team molto forte, Eugenio Monti lo sa, loro sono la coppia da battere per vincere le Olimpiadi, ma questo vale anche per gli inglesi. Ascoltate il ricordo di Tony Nash. 64 was really enormous fun. Il 1964 è stato veramente divertente, soprattutto per come la gente era presa dalle Olimpiadi. Noi avevamo a che fare con due team fortissimi, i due team italiani, che avevano vinto un numero incredibile di campionati del mondo, ma non avevano mai vinto un oro olimpico, quindi erano molto, ma molto determinati. La gara sta per avere inizio, i favoriti sono loro, Monti e Siorpaes, i campioni del mondo. Poi ci sono gli inglesi, Nash e Dixon, e poi c'è un altro equipaggio, Italia 2, con Zanardini e il frenatore romano Bonagura. La prima manche degli azzurri, i campioni del mondo, non è eccellente, sono quinti, però la seconda discesa è spettacolare, sono i primi con un tempo impossibile da battere e Monti comincia a sperare. Alle Olimpiadi di Cortina aveva perso l'oro per un soffio e forse adesso il sogno sta per coronarsi. Gli italiani sono a fondo pista, sono scesi tutti, li assaltano, li danno già per vincitore, gli inglesi devono ancora scendere E improvvisamente arriva una notizia che ha dell'incredibile: il bob di Nash si è rotto un bullone dell'asse posteriore e ha ceduto, probabilmente era arrugginito. Per i britannici l'Olimpiade finisce lì, perché in quegli anni di pionierismo, insomma, tutto è un po' approssimativo ancora. Eh sì, perché oggi i bob combinano leghe in metallo leggero, pattini in acciaio, carrozzerie aerodinamiche, materiali compositi. Negli anni 60 non è così, non siamo più alle slitte di legno, ma i bob che usano i nostri campioni sono dei mezzi rudimentali, e quindi per gli inglesi c'è poco da fare. Tony Nash si rassegna, il suo sogno olimpico si infrange contro un bullone rotto. Gli italiani cominciano a festeggiare, pubblico, i giornalisti, i fotografi, i tecnici. Però si sa, alle Olimpiadi bisognerebbe andare per partecipare, non per vincere, De Coubertin, eccetera eccetera. Poi quando arrivi lì, la voglia di conquistare il podio è superiore a tutto. Però Eugenio Monti non ci sta, non può accettare una vittoria di questo tipo. Si sdraia sotto il suo bob, estrae il suo bullone, lo consegna a un tecnico dicendo: questo è per Tony. Non gareggia aspettando che gli altri si ritirino, è un gesto che si commenta da solo. Ascoltate il ricordo del diretto interessato Tony Nash. Ci fu il panico nel nostro team, avevamo tutti i ricambi ma erano giù alla fine della corsa e non potevamo scendere col bullone rotto. Quando Monti, l'italiano Eugenio Monti, sentì cosa succedeva, disse: se mi mandate giù qualcuno, dopo che ho fatto la mia seconda discesa, posso darvi il mio bullone. Dovreste fare in tempo per la vostra discesa. Il suo fu un gesto fantastico. Prima che quelli della stampa lo assalissero alla fine della sua discesa, lui smontò il bullone dal suo bob e ce lo mandò su tramite un ragazzo. Gli dettero la medaglia De Coubertin per questo, ed è stato assolutamente corretto. Era una persona amabile, ma in effetti tutti gli italiani erano nostri amici. In fact, all the Italians were great friends of ours. Beh, una storia da brividi. Il bullone di Eugenio Monti raggiunge Tony Nash. L'inglese non ci crede, il suo avversario ha praticamente vinto, sta per vincere delle Olimpiadi che probabilmente sono le ultime, perché ha 36 anni. Ma non c'è tempo, il bob viene aggiustato, la squadra di Nash torna in gara. A fondo pista Eugenio Monti guarda il cronometro, il tempo è 4:22:63, buono, ma gli inglesi tagliano il traguardo in 4:21:90. Sono primi e scattano le polemiche. Guardate che Nash non ha vinto perché gli ho dato il bullone, ha vinto perché è andato più veloce. Così risponde Monti ai giornalisti che parlano del suo gesto, perché in Italia siamo così, basta vincere, basta arrangiarsi. Bene, lui non ci sta, non accetta questa mentalità, sa che non è vero, nel bob comanda la velocità, nell'ultima manche commette anche un errore che gli costa l'argento, Zanardini e Bonagura fanno meglio di lui, addirittura Monti arriva terzo, ma è contento lo stesso, anche se per un atleta il coronamento di tutta una vita di fatica e di rinunce sarebbe la vittoria olimpica. Per lui questa vittoria avrebbe avuto un sapore amaro se gli inglesi non avessero potuto gareggiare. Non immagina che qualche giorno dopo il suo fair play sarà premiato con un riconoscimento straordinario. Il riconoscimento per Eugenio Monti è la medaglia Pierre de Coubertin, conosciuta con il nome True Spirit of Sportsmanship Medal, medaglia del vero spirito sportivo. Riconoscimento unico, creato appositamente per premiare la lealtà, l'amore per lo sport e il rispetto per l'avversario. È un riconoscimento attribuito dal Comitato per il Fair Play, è stato istituito nel 63. È una medaglia che viene riconosciuta solo a quegli atleti che abbiano dimostrato uno spirito di sportività fuori dal comune durante i Giochi Olimpici. Viene considerata il premio più importante che un atleta possa ricevere, perfino più importante di una medaglia d'oro, e viene intitolata non a caso a Pierre de Coubertin, ne abbiamo parlato, insomma, il pedagogista, lo storico francese, che non è solo il fondatore dei moderni giochi olimpici, è uno che ha saputo trasformare nel più importante evento sportivo nel mondo una filosofia di gioco leale e una filosofia di fair play. Insomma, per Monti ricevere quella medaglia, la medaglia Pierre de Coubertin, è un evento straordinario, è un onore che spetterà poi postumo a atleti dello spessore di Lutz Long, cioè il rivale di Jesse Owens, o di Emil Zátopek. E comunque, per Eugenio Monti c'è un altro colpo d'ala, una svolta inaspettata, perché lui non si ritira dall'attività, rimane fino alle Olimpiadi di Grenoble del 68, annunciate in una storica parata dall'allora presidente francese Charles de Gaulle. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. E sulla pista dell'Alpe d'Huez Eugenio Monti compie il miracolo. A 40 anni infila una doppietta strepitosa. Primo posto nel Bob a 2 e nel Bob a 4 con Luciano De Polis, Zandonella e Mario Armano. Una età avanzatissima per un atleta di quel livello. Bene, ce la fa lo stesso e in quell'occasione anche un innovatore monta sul suo Bob le maniglie telescopiche da usare in fase di spinta, indossa scarpette di cuoio con i chiodi d'acciaio e molti bobbisti da allora seguiranno le sue orme. Questo gli farà molto piacere. A quel punto si ritira dalle competizioni perché ha vinto veramente tutto quello che c'era da vincere, compreso quell'oro olimpico al quale in un certo senso aveva rinunciato nel 64. Ma il destino è pronto, ahimè, a riservargli altre sfide molto più dure. E dopo essere stato nominato dal Presidente della Repubblica Commendatore per meriti sportivi, Monti torna definitivamente nella sua cortina per occuparsi dei suoi impianti di risalita, dell'attività post-sport che ha messo in piedi. E poi lui, che è considerato un grande donnaiolo, mette la testa a posto, si sposa con l'italo-americana Linda Lee Costantini, dalla quale ha due figli, Alec e Amanda. Sembrerebbero tutti eventi positivi, ma la vita a questo punto smette di essere generosa con Eugenio Monti. Il matrimonio non funziona, la moglie se ne va, se ne torna negli Stati Uniti, si porta via la figlia, è un evento devastante per il campione. E a questo punto si aggiunge l'altro evento terribile, il figlio maschio che è rimasto con lui diventa tossicodipendente, muore di overdose a 24 anni nel 1996. Sul fronte lavorativo le cose non gli vanno meglio, viene accusato di danni all'ambiente perché è presidente onorario della Seggiovia Faloria, pare che nella costruzione dell'impianto sia stata adoperata della dinamite, condannato in primo grado, poi però viene prosciolto in appello, tutto si risolve in nulla, ma il fatto lo amareggia moltissimo. E poi nel 2003 arriva la notizia peggiore: a 75 anni gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson, proprio a lui, al rosso volante, all'uomo che si è lanciato a 150 km all'ora in un corridoio di ghiaccio, lui che nel salotto ha una collezione di medaglie olimpiche mondiali, è il primo atleta della storia a aver ricevuto la medaglia de Coubertin. Proprio a lui la malattia, come dire, più terribile dal punto di vista motorio, il morbo di Parkinson. E apparentemente lui ci convive con la malattia, ma non è così. La mattina del 30 novembre si spara un colpo di rivoltella alla tempia, muore il giorno dopo all'ospedale di Belluno e un anonimo cortinese dichiara: il rosso volante ce l'ha fatta anche questa volta a precedere l'avversario. Una storia piena di colpi d'ala fino quasi all'ultimo. Eugenio Monti, l'uomo che ha saputo volare così in alto, ma che ha saputo dimostrare che il fair play e l'onestà a volte sono più importanti addirittura di una medaglia d'oro. E poi la fine, senza riuscire a accettare l'irreversibile declino. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a trovarmi sulle mie pagine Twitter, Facebook, sulle nostre pagine. E insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.